riprendiamo con le interviste dedicate allo sport popolare milanese. E a questo giro parliamo, ci facciamo una chiacchierata con una compagna della palestra popolare di ZAM. Ciao, ci senti? Sì, ecco, ciao. Sì, ciao. Ciao, buonasera e benvenuta a Radio Tagadà. Allora, niente, dai, noi entriamo subito nel vivo della chiacchiera e volevamo capire un po' come e quando nasce la palestra popolare di ZAM. Allora, la palestra popolare di ZAM nasce all'incirca 12 anni fa, anzi tra poco saranno 12 anni, infatti domani sarà il compleanno di ZAM, e nasce in realtà in modo abbastanza casuale, perché allora, ai tempi dell'occupazione in via Olgiati, i compagni e le compagne si trovarono in uno dei piani superiori dello stabile in cui appunto hanno occupato, si trovarono questo spazio di 300 metri quadri, già tutto con parquet e niente, i più perché specchi e niente, i più affezionati allo sport decisero da subito di farlo diventare un luogo per lo sport popolare. E niente, da subito nascono i primi corsi per kickboxing, nasce il corso di capoeira, che oggi è un corso ancora attivo ed è il corso appunto che vanta 12 anni di attività. Poi nasce il corso di yoga e successivamente apre la scaglieria, che sarebbe poi la palestra di attività indoor, che anche questa è ancora attiva a ZAM, anche in questa nuova occupazione in via Contabbondio. Più o meno questa è la storia e ovviamente ad oggi poi i corsi sono cambiati, ci sono tutte le evoluzioni e non so se volete che li anticipo già, i corsi attivi o come... Sì, ti sentiamo un po' male, non so se sei in viva voce, ti chiediamo di levarlo gentilmente, oppure se no, purtroppo è il bello della diretta, quindi abbiamo una connessione un po' così con i nostri risicati mezzi. Sì, volevamo sapere anche come si inserisce all'interno del quartiere appunto questa palestra, appunto quale attività, corsi, iniziative e percorsi alloggi. Perdonami, non ho capito bene, non ho sentito bene. Volevamo chiederti innanzitutto se hai il viva voce di levarlo gentilmente. Ah, certo, subito. Perché ci dà un po' di problemi, ok? E niente, come si inserisce all'interno del quartiere la palestra e come ci hai accennato tu, quali attività, corsi, iniziative, percorsi alloggi la palestra popolare di ZAM? Ma allora, per quella che è la mia esperienza, poi io faccio parte del corso di box. Ma all'interno del quartiere devo dire che la palestra di ZAM si inserisce bene. Io la frequento da 7 anni e c'è un bellissimo ricircolo di persone, un sacco di ragazzi e ragazze anche del quartiere si incuriosiscono, magari attraverso una serata poi scoprono i vari corsi e vengono a fare le attività. Quindi per questo penso che siamo una palestra fortunata, ecco, perché siamo riusciti a affondare un po' le radici, ecco, sul territorio. Poi ovviamente si cerca di partecipare a tutte le iniziative, anche del collettivo di ZAM, giornate aperte, di sport e quant'altro. E invece rispetto ai corsi che adesso sono attivi, come dicevo, c'è il corso di capoeira, poi c'è sempre l'acciaieria con la sua parete di arrampicata. E noi prima facevamo Muay Thai, quindi come sport di combattimento Muay Thai, e invece da un paio di anni circa adesso facciamo box, quindi siamo attivi con un corso di box. Oltre a questo corso poi c'è un corso di yoga, di flexibility, e adesso è stato appena avviato anche un corso di roller dance, quindi di danza sui pattini. E si cercherà invece di avviare un altro corso invece per bambini e bambine di arti circensi. Questo a livello di sport popolare, ecco, quello che si fa a ZAM. Ok, perfetto. E volevamo chiederti appunto riguardo ai percorsi intrapresi, se avevate voglia di dire due parole su come la palestra, insieme ad altre realtà di sport di contatto milanesi e non solo, sta provando a costruire la giornata di sport popolare del 19 di marzo. Allora, rispetto al 19 di marzo, appunto, come palestra parteciperemo ci sarà un allenamento collettivo, una chiamata per tutte le palestre d'Italia. Alcune ci hanno già contattato, altre invece che magari non abbiamo contattato noi, cogliamo l'occasione per invitare tutti e tutte a partecipare, a contattarci o a contattare direttamente la vostra radio per poi avere appunto i nostri telefoni, recapiti, eccetera. E non ho capito la prima parte bene della domanda, perché ho sentito poco, perdonami. No, no, appunto, cioè volevamo capire un po' come le palestre di sport popolare stavano provando a costruire questa giornata. Sappiamo che oltre alle palestre poi ci sarà tipo il torneo di calcio o a 7 a 5 e il torneo di rugby a 15 misto ragazzi e ragazze. Probabilmente ci sarà come attività anche i tessuti, la pallavolo che spingono anche i compagni e le compagne, insomma, di T28. Volevamo sapere un po' come si stava strutturando questa cosa qui, sì, delle assolutamente. Palestre. Sì, no, ecco, esatto, sarà una giornata, diciamo, dedicata tanto allo sport di squadra, però appunto si riuscirà anche a ritagliare un momento durante il pomeriggio per fare questo allenamento collettivo di boxe. E vabbè, ci tenevo anche a dire che non ci saranno dei combattimenti, ma si organizzerà uno sparring lì al momento, sarà uno sparring, insomma, che verrà gestito. E niente, questo qui sarà più o meno il programma. Perfetto, dai, allora noi ti ringraziamo, andiamo avanti con il programma e ci vediamo sicuramente il 19 di marzo e magari anche prima, ricordando che in avvicinamento alla giornata di sport popolare il 19 marzo tutta l'assemblea appunto che sta costruendo quella giornata lì di sport popolare domani organizzerà giochi insostenibili, che è un'autoformazione riguardo le Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina, che vuole essere un po' a livello contenutistico quello che lo sport popolare milanese vuole provare a portare per le giornate di Dax. Noi allora ti ringraziamo, grazie. E ci sentiamo alla prossima. Grazie a voi, grazie mille e ci vediamo presto. Ciao a tutti e tutte. Grazie ancora. Ciao, ciao, buona serata. Ciao.